Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia uscendo fuori di là disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga. Si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò e sulla vecchia e sul magistrato con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Ma sospirò pensando la vecchia che io fossi ancora desiderata. Sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata che mi si prenda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti al gorilla.